Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Una ricerca finanziata dallo Swedish Strategic Foundation e condotta tra l'altro in collaborazione con il Politecnico di Torino ha recentemente conquistato le pagine di Nature Technology, che è una delle riviste scientifiche più prestigiose. Il tema è quello dei nuovi materiali isolanti. Sappiamo bene che per ridurre in modo sostanziale il consumo di energia degli edifici è necessario intervenire sugli involucri dotandoli di un isolamento efficace. Ma in questo settore, da un lato, ci si scontra con la difficoltà di intervenire in contesti dove vi siano limiti allo spessore dello strato isolante che si può installare, come accade per esempio quando si interviene su un edificio storico, e dall'altro c'è bisogno di mettere a punto materiali isolanti la cui produzione sia meno impattante sull'ambiente di quelli tradizionali, come per esempio il polistirene espanso, che è forse il più utilizzato. Due obiettivi che la ricerca di cui parliamo questa sera ha centrato, mettendo a punto un materiale sostenibile e dotato di proprietà isolanti tra le più spinte in assoluto, paragonabile se non superiore a quella degli aerogel di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Ci spiega tutto Federico Carosio, ricercatore del Politecnico di Torino, che ha partecipato appunto a questo studio. Buonasera Carosio. Sì, buonasera. Allora, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa è fatto questo materiale? Ce lo descriva un attimo. E dunque, qui stiamo parlando di un materiale che è il risultato dell'unione di diversi componenti che vengono sostanzialmente dalla natura. Il componente fondamentale è infatti la nanocellulosa, che è una delle forme di cellulosa, diciamo, rivoluzionarie degli ultimi anni. La nanocellulosa si può estrarre da qualsiasi vegetale. La cellulosa è il biopolimero più presente sulla, diciamo, nella biosfera di gran lunga. Assolutamente, e la nanocellulosa si può estrarre da qualsiasi fonte ed è un modo per valorizzare addirittura questa fonte. Abbiamo poi delle nanoparticelle che è la sepiolite di un filo silicato, e si utilizza anche uno dei materiali che va abbastanza di moda in questi ultimi anni, che è il grafene, nella sua funzione di grafene ossido. Quindi diciamo abbiamo questi polveri, questi granuli, chiamiamoli così, nanoparticelle di cellulosa, delle nanoparticelle, meno male, di silicio, quindi qualcosa simile al vetro, e questo grafene che sono poi come dei foglietti invece di carbonio. Il grafene sì, è praticamente un foglietto di grafite, ma il singolo piano. Un solo strato di atomi, c'è stato anche un Nobel proprio sulla scoperta di questo materiale. Quindi voi mixate, diciamo così, questi tre materiali per ottenere dei pannelli, no? Sostanzialmente, idealmente, diciamo, uno strato di materiale che proprietà ha. Sì, si ottengono questi materiali altamente porosi con elevate proprietà sia di, diciamo, isolamento, che sono il doppio rispetto a quello dei materiali attuali, ma anche una elevata e, diciamo, sorprendente resistenza al fuoco, soprattutto se uno pensa alle componenti. La cellulosa di solito certo, viene messa, brucia benissimo, brucia molto bene, ecco. Il carbonio pure che c'è dentro, il tutto messo assieme però ha delle proprietà eccezionali, perché surclassa nettamente quelle dei materiali attualmente in uso. Quelli tradizionali. E rispetto, per esempio, a materiali un po' più futuribili, che però vengono già prodotti come l'aerogel, ci sono dei vantaggi? Beh, rispetto all'aerogel, dal punto di vista dell'infiammabilità, no, perché l'aerogel, essendo vetro praticamente, inorganico, non può bruciare, però risulta essere proprio per questo motivo molto fragile e avere proprietà meccaniche che difficilmente ne permettono un utilizzo ampio. D'accordo. Per passare a questo punto dal laboratorio alla fabbrica, quali sono le sfide principali da affrontare, i problemi da affrontare? Le sfide principali riguardano sicuramente il processo, che deve essere ottimizzato sia dal punto di vista di consumo energetico, ma anche bisogna aumentare ovviamente i volumi in gioco per produrre dei pannelli che siano utilizzabili dal punto di vista pratico. Cioè il processo che attualmente voi eseguite in laboratorio, lei e i suoi colleghi, insomma, per realizzare dei campioni di questo materiale, così com'è, non si può trasferire nell'industria. Così com'è non si può trasferire, bisogna ingegnerizzare il processo per renderlo più controllato, più efficiente, con dimensioni molto maggiori. Grazie Federico Carosio. Grazie a voi, buonanotte. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.